Così erano le conversazioni tra Clara e sua nipote, surreali. Sicché per Alba, la persona più importante della casa e la presenza più forte della sua vita era sua nonna. Era lei il motore che avviava e faceva funzionare quell'universo magico che era la parte sul retro della grande casa dell'angolo, dove i primi 7 anni della sua vita trascorsero in completa libertà. Si era abituata alle stranezze della nonna. Non si stupiva di vederla mentre si spostava in stato di trance per tutto il salotto, seduta sulla sua poltrona con le gambe raccolte, trascinata da una forza invisibile. Le andava dietro in tutte le sue peregrinazioni attraverso gli ospedali e gli istituti di beneficenza, dove cercava di seguire la pista della serie dei suoi bisognosi e imparò persino a fare a maglia con lana a quattro fili e ferri grossi. I maglioni che suo zio Jaime regalava dopo esserseli messi una volta, non fosse altro che per vedere il sorriso senza denti di sua nonna quando lei diventava strabica nel riprendere i punti. Di continuo Clara si serviva di lei per mandare messaggi a Esteban, sicché l'avevano soprannominata il Colombo Viaggiatore. La bambina partecipava alle riunioni dei venerdì, in cui il tavolino a tre gambe saltava nella piena luce del giorno, senza che ci fosse alcun trucco, energia nota o leva. E alle serate letterarie in cui i maestri consacrati si alternavano a un numero variabile di timidi artisti sconosciuti che Clara proteggeva. In quell'epoca, nella grande casa dell'angolo, mangiarono e bevvero molti ospiti. Si dava il turno per risiedere lì o almeno per assistere alle riunioni spiritistiche, alle chiacchiere culturali e alle conversazioni politiche, quasi tutta la gente importante del paese, compreso il poeta, che anni dopo sarebbe stato considerato il migliore del secolo e tradotto in tutte le lingue conosciute della terra, sulle cui ginocchia Alba si era seduta spesso, senza sospettare che un giorno avrebbe seguito il suo feretro con un mazzo di garofani insanguinati in mano tra due fila di mitragliatrici. Clara era ancora giovane, ma a sua nipote sembrava molto vecchia perché non aveva i denti. Non aveva nemmeno rughe e quando se ne stava con la bocca chiusa dava l'impressione di un'estrema giovinezza, dovuta all'espressione innocente del suo volto. Si vestiva con tuniche di lino grezzo che sembravano camici da pazzi, ed inverno portava lunghi calzerotti e guanti senza dita. La divertivano le faccende meno comiche e invece era incapace di capire uno scherzo. Rideva fuori tempo quando nessuno lo faceva più e poteva diventare molto triste se vedeva un altro fare il buffone. Di tanto in tanto soffriva attacchi d'asma, allora chiamava sua nipote con un campanellino d'argento che portava sempre con sé e Alba arrivava di corsa, l'abbracciava e la curava con sussurri di conforto, dato che entrambe sapevano per esperienza che l'unica cosa a far passare l'asma è l'abbraccio protratto di un essere amato. Aveva occhi ridenti, color di mandorla, i capelli canuti e lucidi raccolti in un nodo scarruffato dal quale sfuggivano ciocche ribelli, le mani fini e bianche, le unghie a mandorla e dita lunghe senza anelli che usava solo per fare gesti di tenerezza, disporre le carte di divinazione e mettersi i denti finti all'ora di mangiare. Alba passava la giornata dietro a sua nonna, infilandosi tra le sue sottane, insistendo perché raccontasse storie o muovesse vasi con la forza del pensiero. In lei trovava un rifugio sicuro quando era presa da incubi o quando gli allenamenti di suo zio Nicolás diventavano insopportabili. Clara le insegnò a badare agli uccelli e a parlare a ognuno di loro nel suo linguaggio, a conoscere i segni premonitori della natura e a confezionare sciarpe a punto incrociato per i poveri. Alba sapeva che sua nonna era l'anima della grande casa dell'angolo. Gli altri lo seppero più tardi, quando Clara morì e la casa perse i fiori, gli amici di passaggio e gli spiriti giocherelloni ed entrò in pieno nell'epoca dello sfacelo. Alba aveva 6 anni quando vide per la prima volta Esteban García, ma non lo dimenticò mai. Probabilmente l'aveva visto prima alle Tre Marie, durante uno qualunque dei suoi viaggi estivi col nonno, quando la portava in giro per la tenuta e con un ampio gesto le mostrava tutto quello che era a portata d'occhio, dai Pioppeti sino al vulcano, comprese le casette di mattoni, e le diceva di imparare ad amare la terra perché un giorno sarebbe stata sua. I miei figli sono tutti dei deficienti. Se ereditassero le Tre Marie in meno di un anno tornerebbero a essere la rovina che erano ai tempi di mio padre, diceva la nipote. Tutto questo è tuo, nonno? Tutto, dall'autostrada panamericana fino alla cima di quelle montagne, le vedi? Perché nonno? Come perché? Perché sono il padrone, chiaro. Sì, ma perché sei il padrone? Perché era della mia famiglia. E perché? Perché l'hanno comprata gli indiani. E i mezzadri, quelli che hanno vissuto sempre qui anche loro, perché non sono i padroni? Ah, tuo zio Jaime sta mettendoti in testa idee bolsceviche, ruggiva rosso d'ira il senatore Trueba. Sai cosa succederebbe qui se non ci fosse un padrone? Che tutto andrebbe a ramengo. Non ci sarebbe nessuno a dare ordini, a vendere il raccolto, ad assumersi la responsabilità delle cose, capisci? E nessuno che si a occuparsi della gente, neanche questo. E se qualcuno si ammalasse, per esempio, o morisse e lasciasse una vedova e molti figli, morirebbero di fame. Ciascuno avrebbe un miserabile pezzetto di terreno e non gli basterebbe neppure per mangiare a casa sua. C'è bisogno di qualcuno che pensi a loro, che prenda le decisioni, che li aiuti. Io sono stato il miglior padrone della regione, Alba. Ho un brutto carattere, ma sono giusto. I miei mezzadri vivono meglio di molta gente in città, a loro non manca niente. E anche se è un anno di siccità, di inondazioni o di terremoto, io mi preoccupo che qui nessuno sia in miseria. Dovrai fare così pure tu quando avrai l'età giusta. Per questo ti porto sempre le Tre Marie, perché tu conosca ogni pietra e ogni animale e soprattutto ogni persona per nome e cognome. Mi hai capito? Ma in realtà lei aveva pochi contatti con i contadini ed era ben lontana dal conoscere ognuno per nome e cognome. Per questo non riconobbe il giovane bruno, goffo e impacciato, con piccoli occhi da topo, che una sera bussò alla porta della grande casa dell'angolo in capitale. Indossava un completo scuro molto stretto per la sua corporatura. Alle ginocchia, ai gomiti e sul sedere la stoffa era lisa, ridotta a una pellicola lucida. Disse che voleva parlare col senatore Trueba e si presentò come il figlio di uno dei suoi mezzadri delle Tre Marie. A prescindere dal fatto che in tempi normali la gente della sua condizione entrava dalla porta di servizio e aspettava in dispensa, lo condussero in biblioteca perché quel giorno c'era una festa in casa alla quale partecipava tutto lo Stato Maggiore del Partito Conservatore. La cucina era invasa da un esercito di cuochi e di aiutanti che Trueba aveva portato dal club e c'era un tale bailamme, un tale affaccendio che un visitatore non avrebbe potuto non dar fastidio. Era una sera d'inverno e la biblioteca era buia e silenziosa, illuminata soltanto dal fuoco che crepitava nel caminetto. Profumava di prodotti per pulire il legno e il cuoio. Aspetta qui, ma non toccare niente. Il senatore Trueba verrà subito, disse in malo modo la domestica lasciandolo solo. Il giovane perlustrò la stanza con lo sguardo senza azzardare alcun movimento, ruminando il rancore per il fatto che tutto quello avrebbe potuto essere stato suo se fosse nato legittimo, come tante volte gli aveva spiegato sua nonna, Pancia Garcia, prima di morire di lipiria fra i crampi e lasciarlo definitivamente orfano in una ressa di fratelli e di cugini tra i quali non era nessuno. Solo sua nonna l'aveva individuato nel mucchio e non gli aveva permesso di dimenticare che era diverso dagli altri, perché nelle sue vene scorreva il sangue del padrone. Guardò la biblioteca sentendosi soffocare. Tutte le pareti erano coperte di ripiani di mogano lustro, tranne i due lati del camino, dove c'erano due vetrinette zeppe di avorio e di pietre dure d'Oriente. La stanza era a due piani, unico capriccio dell'architetto che suo nonno aveva permesso. Una balconata alla quale si accedeva per mezzo di una scala a chiocciola di ferro forgiato faceva le veci di un secondo piano agli scaffali. I migliori quadri della casa erano lì, perché Esteban Trueba aveva fatto di quella stanza il suo santuario, il suo ufficio, il suo rifugio, e gli piaceva avere intorno gli oggetti che apprezzava di più. I ripiani erano pieni di libri e di oggetti d'arte, dal pavimento fino al soffitto. C'era una pesante scrivania di stile spagnolo, grandi poltrone di cuoio nero che voltavano le spalle alla finestra, quattro tappeti persiani che ricoprivano il pavimento di quercia e diverse lampade con paralume di pergamena sparse strategicamente, di modo che in qualunque posto ci si fosse seduti c'era buona luce per leggere. Il senatore preferiva organizzare i suoi conciliaboli in quel luogo, tessere i suoi intrighi o architettare i suoi affari e nelle ore più solitarie chiudersi a sfogare la sua rabbia, il desiderio frustrato o la tristezza. Ma nulla di tutto questo poteva essere noto al contadino che se ne stava con i piedi sul tappeto senza sapere dove mettere le mani, sudando di timidezza. Quella biblioteca signorile, pesante, opprimente, corrispondeva per filo e per segno all'immagine che aveva del padrone, rabbrividì di odio e di timore. Non si era mai trovato in un luogo simile e fino a quel momento aveva pensato che il più lussuoso che potesse esistere in tutto l'universo fosse il cinematografo di San Lucas, dove una volta la maestra della scuola aveva portato tutta la classe a vedere un film di Tarzan. Gli era costato molto prendere la sua decisione, convincere la famiglia a fare il lungo viaggio fino alla capitale, solo e senza soldi, per parlare col padrone. Non poteva aspettare fino all'estate per dirgli quello che gli stava di traverso nel gozzo, ed improvviso si sentì osservato. Si volse e si trovò di fronte una bambina con trecce e calzerotti ricamati che lo guardava dalla porta. «Come ti chiami?» chiese la bambina. «Esteban Garcia», disse lui. «Io mi chiamo Alba Trueba, ricordati del mio nome?» «Me ne ricorderò». Si guardarono a lungo finché lei non prese confidenza e osò avvicinarsi. Gli spiegò che avrebbe dovuto aspettare perché suo nonno non era ancora rincasato dal congresso e gli raccontò che in cucina c'era un turbinio per via della festa, promettendogli che più tardi avrebbe trovato qualche pasta da portargli. Esteban Garcia si sentì più a suo agio. Si sedette su una poltrona di cuoio nero e a poco attrasse a sé la piccola e la mise a sedere sulle sue ginocchia. Alba profumava di Byrum, una fragranza fresca e dolce che si mescolava al suo odore naturale di bambina sudata. Il ragazzo avvicinò il naso al suo collo e aspirò quel profumo sconosciuto di nitore e di benessere e, senza sapere perché, gli si riempirono gli occhi di lacrime. Sentì che odiava quella creatura quasi quanto odiava il vecchio Trueba. Lei rappresentava quello che non avrebbe mai avuto, quello che non sarebbe mai stato. Desiderava farle male, distruggerla, ma voleva continuare ad annusarla, ascoltando la sua vocina infantile e avendo a portata di mano la sua pelle sottile. Le accarezzò le ginocchia, proprio sopra il bordo dei calzerotti ricamati. Erano tiepide e avevano fossette. Alba seguitava a parlare della cuoca che metteva noci nel culo dei polli per la cena della sera. Lui chiuse gli occhi, stava tremando. Con una mano circondò il collo della bambina, sentì le sue trecce che solleticavano la nuca e schiacciò leggermente, consapevole del fatto che era tanto piccola che con un minimo sforzo poteva strangolarla. Desiderava farlo, voleva sentirla torcersi e muovere le gambe sulle sue ginocchia agitandosi in cerca d'aria. Desiderava udirla gemere e morire tra le sue braccia, desiderava spogliarla e si sentiva violentemente eccitato. Con l'altra mano penetrò sotto il suo vestitino inamidato, percorse le gambe infantili, trovò il pizzo della sottoveste di batiste e le mutandine di lana con l'elastico, ansimava. In un angolo del suo cervello gli rimaneva abbastanza buon senso per rendersi conto che si trovava sul bordo di un abisso. La bambina aveva smesso di parlare. E se ne stava quieta, guardandolo con i suoi grandi occhi neri. Esteban Garcia prese la mano della piccola e la appoggiò sul suo sesso indurito. «Sai cos'è questo?» chiese con voce roca. «Il tuo pene?» rispose lei, che l'aveva visto nelle illustrazioni dei libri di medicina di suo zio Jaime e in suo zio Nicolás quando passeggiava nudo facendo i suoi esercizi asiatici. Lui trasalì, si alzò bruscamente e lei cadde sul tappeto. Era sorpreso e spaventato. Gli tremavano le mani, sentiva le ginocchia molli e le orecchie calde. E in quel momento udì i passi del senatore Trueba nel corridoio e un istante dopo, prima di riuscire a riprendere un respiro normale, il vecchio entrò nella biblioteca. «Perché è così scuro qui?» ruggì col suo vocione da terremoto. Trueba accese le luci e non riconobbe il giovane che lo guardava con gli occhi fuori delle orbite. Tese le braccia a sua nipote e lei vi si rifugiò per un breve attimo come un cane bastonato, ma subito si sciolse e uscì, chiudendo la porta. «Chi sei tu, ragazzo?» spiattellò a quello che era pure lui, suo nipote. «Esteban Garcia, non si ricorda di me, patron?» riuscì a balbettare l'altro. Allora Trueba riconobbe il bambino sornione che aveva denunciato Pedro III anni prima e aveva raccolto da terra le dita amputate. Capì che non gli sarebbe stato facile mandarlo via senza averlo ascoltato, nonostante avesse come norma che le faccende dei mezzadri doveva risolverle l'amministratore alle Tre Marie. «Cosa vuoi?» gli chiese. Esteban Garcia indugiò, Non riusciva a trovare le parole che aveva preparato così minuziosamente per mesi prima di osar bussare alla porta di casa del patron. Parla, alla svelta, non ho molto tempo, disse Trueba. Tartagliando, Garcia riuscì a formulare la sua richiesta. Era riuscito a finire le medie a San Lucas e voleva una raccomandazione per la scuola dei carabinieri e una borsa di studio dallo Stato per pagarsi gli studi. Perché non resti in campagna come tuo padre e tuo nonno? Gli chiese il padrone. Scusi, signore, ma voglio diventare un carabiniere, pregò Esteban Garcia. Trueba si ricordò che gli doveva ancora la ricompensa per aver denunciato Pedro Garcia e decise che quella era una buona occasione per saldare il debito e contemporaneamente avere un servitore nella polizia. Non si sa mai, da un momento all'altro potrei averne bisogno, pensò. Si sedette alla sua pesante scrivania, prese un foglio di carta con intestazione del Senato, scrisse la raccomandazione nei termini abituali e la porse al giovane che aspettava in piedi. Prendi, figliolo. Mi congratulo che tu abbia scelto questa professione. Se quanto chiedi è di girare armato, tra essere delinquente o essere poliziotto è meglio essere poliziotto perché hai l'impunità. Chiamerò per telefono il comandante Hurtado, è mio amico, affinché ti diano la borsa di studio. Se hai bisogno di qualcosa, avvisami. Grazie molte, patron. Non ringraziarmi, figliolo, mi piace aiutare la mia gente. Lo salutò con una pacca amichevole sulla spalla. Perché ti hanno messo il nome Esteban? Gli chiese sulla soglia. Per lei, signore, rispose l'altro arrossendo. Trueba non scorse un secondo senso nella cosa. Spesso i mezzadri usavano i nomi dei loro padroni per battezzare i figli come segno di rispetto. Clara morì lo stesso giorno in cui Alba compì 7 anni. Il primo annuncio della sua morte era stato colto solo da lei. Allora cominciò a disporsi segretamente alla partenza, con grande discrezione, spartì i suoi vestiti fra i servitori e fra la sequela dei suoi protetti che aveva sempre, tenendosi l'indispensabile. Mise in ordine le sue carte, tirando fuori dagli angoli nascosti i suoi quaderni in cui annotava la vita. Li legò con nastri colorati, separandoli secondo gli eventi e non in ordine cronologico, perché l'unica cosa che si era dimenticata di mettere erano le date. E nella fretta della sua ultima ora aveva deciso che non poteva perdere tempo a controllarle. Cercando i quaderni, cominciarono a comparire i gioielli nelle scatole delle scarpe, nei sacchetti per le calze e in fondo agli armadi dove li aveva messi dall'epoca in cui suo marito glieli aveva regalati, pensando così di ottenere il suo amore. Li mise in una vecchia calza di lana, la chiuse con una spilla di sicurezza e la diede a Blanca. La conservi, figlia. Un giorno potranno servirle per qualcosa di più importante che mascherarsi, disse. Blanca ne parlò con Jaime e questi cominciò a sorvegliarla. Notò che sua madre faceva una vita apparentemente normale, ma che quasi non mangiava, si nutriva di latte e di un cucchiaio di miele, non dormiva neppure molto, trascorreva la notte scrivendo o girando per casa. Sembrava staccarsi dal mondo, ogni volta più leggera, più trasparente, più alata. Un giorno di questi uscirà volando, disse Jaime preoccupato. D'improvviso cominciò a mancare l'aria. Sentiva nel petto il galoppo di un cavallo imbizzarrito e l'ansia di un cavaliere che va di gran fretta contro il vento. Disse che era l'asma, ma Alba si era resa conto che non la chiamava più col campanellino d'argento affinché la curasse con abbracci protratti. Un mattino vide sua nonna aprire le gabbie degli uccelli con inesplicabile allegria. Clara scrisse bigliettini per coloro che amava, i quali erano molti, e li mise segretamente in una scatola sotto il suo letto. Il mattino dopo non si alzò e quando giunse la cameriera con la colazione non le permise di aprire le tende. Aveva cominciato a congedarsi anche dalla luce per entrare lentamente fra le ombre. Avvertito, Jaime andò a vederla e non se ne andò via finché non si fu lasciata visitare. Non riuscì a trovare niente di anormale nel suo fisico, ma seppe senza ombra di dubbio che stava per morire. Uscì dalla camera con un ampio e ipocrita sorriso e una volta lontano dallo sguardo di sua madre dovette appoggiarsi alla parete perché le gambe gli cedevano. Non lo disse a nessuno in casa. Chiamò uno specialista che era stato suo professore alla facoltà di medicina e questi si presentò a casa Trueba quello stesso giorno. E dopo aver visitato Clara, confermò la diagnosi di Jaime. Riunirono la famiglia nel salotto e senza tanti preamboli comunicarono che non sarebbe vissuta più di 2 o 3 settimane e l'unica cosa che si poteva fare era tenerla compagnia finché se ne andasse contenta. Credo che abbia deciso di andarsene e la scienza non ha alcun rimedio contro questo male, disse Jaime. Esteban Trueba prese suo figlio per il collo e stava quasi per strangolarlo. Buttò fuori a spintoni lo specialista e poi irruppe a bastonate i lampadari, le porcellane del salotto e infine cadde a terra in ginocchio gemendo come un bambino. Alba entrò in quel momento e vide suo nonno alla propria altezza. Si avvicinò, si fermò a guardarlo sorpresa e quando vide le sue lacrime lo abbracciò. Dal pianto del vecchio la bimba apprese la notizia. L'unica persona in casa a non perdere la calma fu lei, grazie al suo allenamento a sopportare il dolore e perché sua nonna le aveva spiegato in dettaglio le circostanze e le ansie del trapasso. Così come quando si viene al mondo, morendo abbiamo paura dell'ignoto, ma la paura è qualcosa di interiore che non ha nulla a che vedere con la realtà. Morire è come nascere, solo un cambiamento, aveva detto Clara. Aveva aggiunto che se lei poteva comunicare senza difficoltà con le anime dell'aldilà, era completamente sicura che dopo avrebbe potuto farlo con le anime dell'aldiquà, sicché, invece di piagnucolare, quando il momento fosse arrivato, voleva che stesse tranquilla, perché nel suo caso la morte non sarebbe stata una separazione, bensì un modo di stare più unite. Alba l'aveva capito perfettamente. Di lì a poco sembrò che Clara fosse entrata in un dolce sogno e solo il visibile sforzo di introdurre aria nei suoi polmoni indicava che era ancora viva. Comunque l'asfissia non sembrava angosciarla, dato che non stava lottando per la vita. Sua nipote le rimase accanto tutto il tempo. Dovettero improvvisarle un letto sul pavimento perché si rifiutava di uscire dalla stanza e quando la vollero portare via con la forza, ebbe la sua prima convulsione. Insisteva che sua nonna si rendeva conto di tutto e che aveva bisogno di lei. Così era in effetti. Poco prima della fine Clara riprese coscienza e poté parlare con tranquillità. La prima cosa che notò fu la mano di Alba nella sua. Sto per andarmene, vero, piccola? Domandò. Sì, nonna, ma non importa perché io sto con te, rispose la bambina. Va bene, tira fuori la cassetta con i biglietti che c'è sotto il letto e distribuiscili perché non ce la faccio a salutare tutti. Clara chiuse gli occhi, esalò un sospiro soddisfatto e se ne andò all'altro mondo senza guardarsi indietro. Intorno a lei c'era tutta la famiglia. Blanca e Jaime dimagriti per le notti di veglia, Nicolás che mormorava preghiere in sanscrito e Esteban con la bocca e i pugni stretti, infinitamente furioso e desolato, e la piccola Alba, che era l'unica a rimanere serena. C'erano anche i domestici, le sorelle Mora, un paio di artisti poverissimi che erano sopravvissuti nella casa durante gli ultimi mesi e un sacerdote che era venuto, chiamato dalla cuoca, ma non ebbe niente da fare perché Trueba non permise che desse fastidio alla moribonda con confessioni dell'ultima ora né con aspersioni di acqua benedetta. Jaime si chinò sul corpo cercando qualche impercettibile battito del suo cuore, ma non lo trovò. La mamma se n'è andata, disse in un singhiozzo.